Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. Del virus moralista ne parleremo la prossima volta, per il momento è rimasto secco nel programma assetticista del Grande Albergo. Grazie a tutti voi e vi riconfermo la trasmissione alla medesima ora per domenica prossima. Buona giornata. La replica, ricordate, è mercoledì notte, la notte tra mercoledì e giovedì, qualche po' dopo l'ultima edizione delle news.